vengale tosto. Vado, vado. Chissà che nel mirarmi così spoglia negletta non si muova con lui, benché di sasso. Vieni e affretta il passo. Vieni a te mi prostro. Misera a me, tu qui signor, mi nostra, ti rossole di guance. Mi ritiro se il chiedi. No, no. Tu non vedi come sconcia son io? Mi dicesti? Che dici? Tu fai l'errore incauto servo e ardisci, scorre ancora la fadenza. Oh, questa sì che bella!